in cui appunto appare anche il nostro fantastico Samuele Bersani. E ora il sole illumina il nostro cuore, ecco il sole ci risveglia occhi e ragione. E ora il sole illumina il nostro cuore, ecco il sole. Ci avevano detto di credere a tutto e di battere sempre le mani. Eppure il loro non era un concerto, ma un triste dibattito spento. Ah, finisce così, ok, non me ne ero accorto. Allora, invece, eccoci qua, che forse abbiamo anche la musica di sottofondo. E dicevamo, un ospite stasera ci ha dato buca, succede alle volte. Naturalmente salutiamo la nostra fantastica co-conduttrice Mia Daschio su PA, che anche lei stasera non c'è perché ha una pancia notevole, dunque la salutiamo e le mandiamo un grande abbraccio. Ma quello che naturalmente c'è, come al solito, è il nostro fantastico Marco Roma, che oggi ci ha cantato così. Buongiorno, mi mancano i tuoi sguardi, quei tuoi abbracci così dolci. Mi manca vederti in riva al mare mentre correvi tra le nuvole. Mi manca quel sole che non vedo più da Marco Roma. Buongiorno a voi. E buongiorno anche a te, Marco Roma, naturalmente. E anche a me manca il sole, anche perché appunto oggi ha cominciato a piovere. Ma malgrado questa cosa, in realtà oggi è una giornata positiva. Non so se avete ascoltato il nostro Popolare Network, il giornale radio di Popolare Network, poco tempo fa, ma come avete sentito, Julian Assange oggi ha ottenuto la possibilità di un nuovo appello contro la sua estradizione negli USA. L'alta corte di Londra oggi ha decretato appunto che il 52enne australiano ha diritto a un nuovo appello sulla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti e già approvata dal governo britannico. Suppongo che tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko sappiano benissimo chi è Julian Assange. Nel caso non lo sapeste, Julian Assange era il fondatore, è stato il fondatore di WikiLeaks, questo sito che alla fine degli anni 90 ha cominciato a raccogliere questi leaks, appunto, che sono praticamente le prove di malefatte di vari governi in giro per il mondo, e a pubblicarli così come fanno appunto i giornali. Faceva appunto ricerche giornalistiche, eccetera, ha ricevuto tantissimi premi per il suo giornalismo, soprattutto grazie all'aiuto di Chelsea Manning, che ha appunto dato a WikiLeaks un sacco di materiale sulla guerra del Golfo e sulla guerra in Afghanistan, che nel frattempo stavano succedendo, la seconda guerra nel Golfo in Iraq, dove appunto in alcuni video si vedono appunto i soldati americani uccidere dei civili e anche due giornalisti della Reuters. Cosa succede? Che a un certo punto WikiLeaks pubblica questo video dove chiaramente si vede questo elicottero fucilare questi civili, E una settimana dopo, casualmente, Julian Assange viene arrestato per stupro mentre è in Svezia, con le accuse appunto di avere fatto sesso non protetto con una ragazza. Per le leggi svedesi il sesso non protetto di una, se non è consenziente, se la non protezione non è consenziente, è equivalente allo stupro, e dunque lui viene incriminato, ma lui scappa a Londra, dopodiché si rifugia perché lui naturalmente dice che questa era una scusa per gli Stati Uniti per chiedere l'estradizione una volta arrestato in Svezia e appunto processarlo negli Stati Uniti, perché fondamentalmente il fatto di gli Stati Uniti sostengono che per il fatto di avere raccontato alcune cose di quello che succedevano nelle guerre appunto in Afghanistan e in Iraq, Julian Assange era un traditore, pur essendo lui non un cittadino statunitense bensì un cittadino australiano. E in effetti la cosa strana che sta succedendo dopo tutto questo, cosa è successo? Che lui è stato 9 anni nascosto nell'ambasciata dell'Ecuador, perché il presidente dell'Ecuador ha detto noi ti difendiamo, e dunque lui si è instaurato, diciamo, in una stanzetta nell'ambasciata dell'Ecuador, di fatto a Londra, di fatto agli arresti domiciliari, proprio per il fatto che se fosse uscito da lì la polizia inglese l'avrebbe preso con la richiesta di estradizione della Svezia. Dopodiché cosa succede? Che mentre lui era nell'ambasciata ecuadoregna va avanti il processo, ma il processo viene dismesso perché di fatto non c'era stato alcun reato, cioè le due ragazze che avevano accusato Julian Assange alla fine lasciano cadere le accuse, perché di fatto non era successo niente a parte sesso consenziente, ma lui rimane nell'ambasciata. Perché rimane nell'ambasciata? Perché sa che nel momento in cui esce dall'ambasciata verrebbe arrestato. Dopodiché cosa succede? Che il governo dell'Ecuador cambia governo, il nuovo governatore, il nuovo presidente è molto più vicino agli Stati Uniti, e dunque dice che Julian Assange se ne deve andare dall'ambasciata, e dunque lo molla, lo lascia, lo spinge fuori dall'ambasciata. In quel momento la polizia inglese lo arresta e lo mette nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, e lui è lì da 4 anni in isolamento, cioè non in un carcere normale, perché in realtà la richiesta di estradizione adesso è degli Stati Uniti per treason, ovvero per come si dice treason in italiano, per non ammutinamento ma qualcosa del genere, cioè per aver lavorato attivamente contro il governo degli Stati Uniti, se non fosse appunto che lui non era né nel territorio statunitense né cittadino statunitense, e dunque praticamente la sua persecuzione è ovviamente politica, perché poi nel frattempo quello che altre cose erano successe bisogna anche dire che l'elezione di Trump negli Stati Uniti contro la Clinton era anche stata facilitata da WikiLeaks, che aveva appunto pubblicato tutte le email che erano state uscite dall'email personale della Clinton, tra cui appunto c'erano delle tresche abbastanza spaventose che in realtà adesso sappiamo che i politici fanno normalmente. Fatto sta che comunque lui ha fatto domanda di appello 2 o 3 volte, gli è stata negata più volte, e oggi invece gli è stato concesso sulle basi del fatto che gli Stati Uniti non lo tratterebbero al pari di un cittadino statunitense. Del resto c'è anche da dire un'altra cosa, che si è scoperto che la CIA, quando lui era nell'ambasciata dell'Ecuador, aveva messo delle microspie, delle telecamere nascoste, e pagava un'azienda che aveva messo le telecamere nascoste per avere per sentire tutte le sue conversazioni eccetera, e non solo, aveva pure progettato di ucciderlo. Questo per farvi capire quanto un personaggio come Julian Assange è spaventoso per un governo come quello degli Stati Uniti. Detto questo, sarà il caso di ascoltare un altro pezzo. In realtà, come backup di questa giornata senza ospite, devo dire che mi è arrivato un sacco di materiale nuovo, per cui prima di tutto ascoltiamo un bel pezzo reggae, così ci rilassiamo un po'. Ascoltiamo Higher We Go di Jemair Morgan, e naturalmente ringraziamo il fantastico Felix di Boom Rush Promotions, che ci manda due o tre pezzi alla settimana solo per noi, solo per Coxo Spaziale. Ed eccoci ritornati in studio. Questa naturalmente è Radio Città Fujiko, nel caso io sono Stefano W. Pasquini, questo è Coxo Spaziale. Solitamente noi ci occupiamo di arte contemporanea, ma stasera invece stiamo parlando di Julian Assange. È un caso che a me preme particolarmente. Infatti chi mi conosce sa che molto spesso posto novità su quello che è la situazione di Julian Assange. Un'altra cosa che probabilmente non vi siete accorti è che, per esempio, per i 9 anni in cui Julian Assange era in autoesilio, diciamo, all'interno dell'ambasciata ecuadoriana, Amnesty International non ha detto una parola. Dopodiché adesso sta facendo una mini campagna veramente di facciata in cui chiede la liberazione di Julian Assange, ma tuttora non è considerato un prigioniero di coscienza, che è una roba abbastanza allucinante. Cioè loro pestano con tutti i giornalisti messi in galera in vari posti del mondo, ma evidentemente quando questo succede da parte degli Stati Uniti o da parte del Regno Unito, il problema evidentemente non è così sentito. Detto questo, sono le 20:22 prima dell'angolo della menzione che faremo dopo la pubblicità delle 20:30, volevo raccontarvi che venerdì prossimo, da questo venerdì appunto da mezzogiorno, apre al Mambo Books, la fiera del libro d'arte e del libro d'artista. Abbiamo sentito Danilo Montanari, il direttore, insieme a Lorenzo Barbi della fiera, e sentiamo cosa ci racconta. Racconta, eccolo qua. Arte contemporanea. Danilo Montanari, editore, come ti è venuta in mente di fare una fiera di libro d'artista qui a Bologna? Intanto mi è venuta in mente perché per alcune decine di anni ho fatto le fiere degli altri, più all'estero che in Italia. Ma qui in Italia ci sono due esperienze significative. La prima è Arte Libro, proprio qui a Bologna, alla quale partecipavo come espositore e che aveva delle caratteristiche un pochino diverse da queste, no? Era molto più fondata sulla parte antiquaria, mentre è poco sul contemporaneo. Questa è quasi tutta sul contemporaneo, pochissimo sull'antiquario, ma l'impostazione sostanzialmente riprende quel progetto. L'altra, più vicina a questa nostra Books, è il Flat di Torino, che è durato poco, mi pare 3 edizioni, che aveva senz'altro delle pretese superiori a queste, perché aveva alle spalle dei grossi finanziamenti, si faceva la Nuvola Lavazza, uno spazio molto bello, ma che sostanzialmente riprendeva questo tipo di impostazione, cioè tutta sul contemporaneo, con alcuni spazi di incontri, dibattiti. Meno di questa, non aveva le piccole mostre, i piccoli focus che invece qui organizziamo, insomma. E dunque è fallimentare presentare il libro d'artista in questo paese, o sbaglio? Cioè, Flat era fantastica, anche Fruit, non so se te la ricordi, era sempre fantastica, sì, sì. Però tutte esperienze che, ahimè, come mai finiscono così in fretta? Beh, allora, la mia opinione è abbastanza semplice, è documentata. Questa esperienza di Books, non dico in attivo perché sarebbe troppo, mm-hmm. ma sicuramente non in passivo. No, perché poi diciamolo, è la seconda edizione, l'hai fatta l'anno scorso, è andata bene, siamo tutti contenti. Non vorrei dire che forse c'è un direttore, mi sono rimasti anche qualche centinaio di euro attaccate alle tasche, sicuramente non ci ho rimesso, ma perché sono più bravo degli altri, me lo posso dire. Possiamo dirlo. Posso certo. Dirlo perché sì, sì. Ho un po' più di esperienza, no? Mm-hmm. Nel senso, per cui ad esempio, i tavoli che vedete qui me li sono procurati grazie ad alcune intrature, cioè tramite Marzia Coraini e l'organizzazione del Festival del Libro di Letteratura di Mantova. E lo stesso che produce questi tavoli per loro li ha fatti per me a un prezzo praticamente al costo dei materiali, no? E ogni anno io non faccio altro che riutilizzarli, quindi sempre questo è un costo che è sempre ammortizzato. E per il resto il festival si regge sulla quota di partecipazione degli espositori, che posso dirlo è 350 euro, quindi è del tutto accessibile, ma sufficiente a garantire quella poco di budget che serve per mandare avanti la cosa. Poi dopo, per tutto il resto, ho amici che hanno il furgone, altri che si possono una cosa dell'altro, il tutto in cambio di una cena in trattoria, e quindi insomma i costi vengono contenuti per forza, per cui poi per cui il segreto è contenere i costi, appunto. Il segreto è contenere i costi, sì, questo credo che valga come anche disciplina della vita, no? Cioè problema dei rifiuti si risolverebbe se si consumasse, se si producessero meno rifiuti, certo. Intanto, no? Per cui, e qui più o meno la stessa cosa, con il fatto che anche per quanto riguarda l'ufficio stampa, mi servo di quello del Mambo, sono molto bravi e precisi, ma più che altro mi servo di relazioni personali, per cui è inutile avere un ufficio stampa che ti fa pubblicare un articoletto su un giornale di provincia, mentre è molto utile avere qualche persona introdotta all'interno di quelli che sono i mezzi di comunicazione più importanti per questo settore, tipo la lettura del Corriere della Sera o Robinson di Repubblica, insomma. Certo. Sì, insomma, adesso non voglio dare troppi segreti, no, infatti appunto, esattamente. No, io ti ringrazio tantissimo, ti volevo giusto chiedere tutti i dati, dove, quando e a che ora cominciamo. Venerdì allora, prossimo cominciamo venerdì prossimo, che è il 24, sì. Alle 11 con una preview per la stampa, a mezzogiorno, okay. Apriamo fino alle 19, e gli altri giorni dalle 10 alle 19, che domenica chiudiamo alle 19. Fantastico. Ingresso con il biglietto del Mambo. Con il biglietto del Mambo, non preoccupatevi, perché fra uno sconto studente, uno sconto socio Coop. Ah, gli studenti sono gratuiti, lo diciamo. Gratuiti, ecco, non lo sapevo. Insomma, alla fine penso che quei pochi che dovranno pagare se la caveranno con un paio di euro. Esatto. E numero di espositori? Sono più di 30, meno di 40, un numero così, più o meno, 35 mi pare, con alcune novità. Ci sono tutti quelli dell'anno scorso, tranne due che sono impossibilitate per motivi proprio fisici e okay. Personali, però in più c'è l'Idea Books di Amsterdam, che è il più grosso distributore di libri non solo in Europa, forse sono uno dei più grossi libri d'arte, insomma, nel mondo. C'è Sims Read di Londra, che è importantissimo studio bibliografico, c'è Artfilen di Lugano, c'è come novità c'è anche il Cenobio, che si porterà qualche cosa in più per quanto riguarda il libro raro del Novecento, insomma, quindi concediamo qualcosa un po' più indietro. Okay. E poi una curiosità, Vaiana Papers di Sao Paolo, wow. Che portano dei libri fotografici dell'America Latina, cioè, giusto come. Per cui dunque bisogna prepararsi a stare qui ore a sfogliare tutto, anche perché la storia dell'arte del secolo scorso la vediamo praticamente, sì, tutta in questi libri d'arte. Possibilmente invito anche a comprare, perché se volete che questi espositori tornino anche il prossimo anno, bisogna che qualcosa venda. L'anno scorso sono andati molto bene, okay, sempre relativamente ai numeri di questi festival, insomma, però bene, tant'è che sono tornati. E vorrei anche dire, visto che il pubblico che viene è generalmente un pubblico giovane, a parte quei 4 collezionisti che abbiamo in Italia, che è una buona maniera per cominciare a collezionare, avvicinarsi, e anche per fare un investimento, certo. Per dirti, ci sono io che ho un certo numero di anni, ci sono libri che avrei potuto comprare, qualcuno l'ho comprato nella fine degli anni 70, e oggi costa 4-5 mila euro, esatto. E allora se pagavano 10.000 lire dirò che io ho comprato Fotografia inconscio tecnologico di Franco Vaccari in un mercatino a 1.500 lire e poi però l'ho perso. Ecco, spero di ritrovarlo io in un mercatino, esatto, da uno sprovveduto. sì, però è un invito, è, certo, una forma per imparare a conoscere l'opera degli artisti, perché il libro d'artista è in realtà l'espressione massima, forse concentrata, però, del lavoro di un artista, per avvicinarsi e avere delle cose che sono comunque anche preziose, certo, e che possono anche diventare preziose. Per cui benissimo, io ti ringrazio. Birra, una pizza in meno e un libro in più, per una volta, per una volta, poi dopo si torna birra e pizza. Esatto, sì. Io ti ringrazio tantissimo, ci vediamo venerdì prossimo a mezzogiorno al Mambo. Piacere, grazie mio, grazie a tutti voi. Ciao. Ciao. Ciao. Coxo Spaziale. Ebbene sì, 490esima puntata di Coxo Spaziale. Io sono sempre Stefano W. Pasquini e adesso che dobbiamo fare? No, non parlerò più d'amore. È il primo album di Perso, ovvero Leonardo Filippo Longhi Persico, nato a Roma nel 2006, che è uscito venerdì 10 maggio per Pioggia Rossa Dischi, un lavoro di 9 tracce che esplora gli amori, le delusioni, i sogni e i desideri che pulsano nel cuore di un ragazzo di appena 17 anni, con un punto di vista personale. Non ancora, con un punto di vista personale vibrante, Perso offre una prospettiva unica sui sentimenti, sulla loro intensità e mutevolezza. Ringraziamo la fantastica Agnese di Per Press e andiamo ad ascoltarci, se la trovo, una canzone indie. Dove l'abbiamo messa? Eccola qua. Dove scrivo una canzone indie, ma non so nemmeno da dove iniziare. Chiedersi se ti piacciono ancora i miei dischi, o se hai qualcosa ancora da mangiare. Casa mia, non c'eri più, e cazzo te ne sei andata. Ma io faccio ancora l'autostop sull'autostrada per trovare dei sentimenti o qualcosa che non vada più. Quello che mi fa stringere i denti è il fatto che ora non ti vedo. Accendino, così che mi accendo un'altra sigaretta alle 4 del mattino. Lo sai, esco presto, vado sempre di fretta per venire da te. Pure se non mi vuoi, pure se al posto mio c'è un altro che ingoi tutte le tue bugie, tutte le tue agonie e tutte le fantasie che ora non sono mie. Per trovare canzone indie di Perso, oppure Perso se per caso vieni dalla Romagna. Per niente questo Perso, sono sicuro che tirerà fuori della roba interessante e lo ascolteremo di nuovo. Allora, questo è sempre Coxo Spaziale, io sono sempre Stefano W. Pasquini, mettiamo anche un pochino di jazz come sottofondo, visto che, e poi invece immediatamente andiamo a fare questa cosa qua che è, come al solito, l'angolo della menzione. Olè. ovvero tutto quello che succede questa settimana. A partire da giovedì 23 maggio alle ore 14, la prima performance di Tenderness is Reserved for the Unpredictable, una mirror performance di Sanjeska e Dejana Pupovaca a cura di Eleonora Angiolini. 23, 24 e 25 maggio 2024 a Bologna, al padiglione dell'Esprit Nouveau in Piazza della Costituzione, Contemporary Attitude e Adiacenze presentano Tenderness is Reserved for the Unpredictable, una performance partecipativa delle artiste serbe Sanjeska e Dejana Pupovaca o Pupovaca, non lo so, a cura appunto di Eleonora Angiolini. Tenderness is Reserved for the Unpredictable è una mirror performance, un'opera condivisa in termini concettuali e di sviluppo temporale tra le due città oltreoceano. Il progetto si svolgerà rispettivamente a Bologna presso il padiglione dell'Esprit Nouveau e simultaneamente a New York presso la NYS Project Space. In entrambi i luoghi il pubblico sarà invitato a partecipare e attivare la performance in prima persona. Tenderness is Reserved for the Unpredictable è presentato in occasione di Closer, la prima edizione di una rassegna diffusa di mostre, performance e installazioni a cura di Amerigo Mariotti e Giorgia Tronconi di Adiacenze, in collaborazione con Eleonora Angiolini, che trae ispirazione dalla figura di Guglielmo Marconi in occasione del 150° anniversario della sua nascita, per indagare la natura delle relazioni oggi e il ruolo della tecnologia e della rete nella comunicazione contemporanea, attraverso opere già esistenti, nuove produzioni artistiche e format laboratoriali. Il progetto, patrocinato dalla Fondazione Guglielmo Marconi e dal Comune di Bologna, si svilupperà nel corso di un anno, da maggio 2024, per cui questo giovedì sarà la partenza, ad aprile 2025. Questa al padiglione dell'Esprit Nouveau, che se non ci siete mai stati è un posto meraviglioso, come si dice, progettato da Le Corbusier, in Piazza della Costituzione 11 a Bologna. Dopodiché, sempre giovedì alle ore 18, Abitare il Vortice, come le città hanno perduto il senso e come fare per ritrovarlo. Incontro con Bertram Nissen nell'ambito di Plus Public Minus Program, oppure More Public Minus Minor Program, non lo so, più public meno program. Questo è il programma di talk a cura di Fabiola Nardi. Bertram Nissen alterna sapientemente lo sguardo freddo del sociologo, il piglio dell'agitatore culturale e l'attitudine pragmatica di chi da anni lavora come un esperto accompagnatore di trasformazioni urbane. Se la modernità è per definizione sempre più liquida, le città sono specchi d'acqua. Le spinte, le controspinte economiche, le trasformazioni sociali e politiche ne agitano la superficie senza sosta, creando vortici spaventosi e seducenti. Resta da capire se è possibile, oggi e ancor più di domani, e ancor più domani, trovare il modo di abitare il vortice. Questo è alla sala conferenze del Mambo, giovedì 23 maggio 2024 alle ore 18 in via Don Minzoni 14 a Bologna. Non contenti, abbiamo anche alle ore, sempre giovedì, sempre alle ore 18, per cui ci vorrebbe il dono dell'ubiquità o il dono di Simone Rondelet, la presentazione del catalogo della mostra L'altra sorgente, The Other Source, con Marion Baruch, Susan Lacey, Sabrina Mezzacqui, Maria Nepomuceno, Sabrina Casadei, a cura di Maura Pozzati. Nella serata appunto si presenta il catalogo della mostra, che è su da Astuni da un po' di tempo, e ci saranno interventi di Andrea Bardi, Sabrina Casadei, Sabrina Mezzacqui, Maura Pozzati e Noah Stolz. Questa è in galleria Enrico Astuni in via Jacopo Barozzi 3 a Bologna. Enrico, questi sono 50 euro, no scherzo. Venerdì 24 maggio alle ore 12, appunto, come abbiamo sentito prima da il nostro fantastico Danilo Danilo Montanari, inaugura appunto Books, Bologna Art Books Festival, festival del libro dedicato ai libri d'arte ed artista. Dopo il successo della prima edizione, Danilo Montanari Editore, in collaborazione con Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, settore Musei Civici Bologna, presenta la seconda edizione di Books, il festival dedicato ai libri d'arte ed artista, che avrà luogo presso la Sala delle Ciminiere del Mambo da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2023. 4. Nato dall'idea di non disperdere l'eredità di due manifestazioni fondamentali del settore, Arte Libro, qui a Bologna, il Festival del Libro d'Arte che si è svolto a Bologna dal 2003 al 2014, e FLAT, la Fiera del Libro d'Arte di Torino, appuntamento internazionale che ha animato il capoluogo piemontese dal 2017 al 2019, Books si posiziona in un segmento laterale, seppur non strettamente alternativo, al fenomeno delle fiere, con l'obiettivo di proporre, grazie al libro come medium, contenuti e occasioni che facilitino il rapporto diretto di conoscenza e scambio tra artisti e collezionisti senza rinunciare a una vocazione di mercato. Books è a cura di Danilo Montanari e di Lorenzo Balbi e si avvale di un comitato scientifico composto da Silvia Alessandri, Mario Diacono, Liliana De Matteis e Giovanna Pesci. E per chi non lo sapesse, appunto, sono tutti nomi di un certo rilievo, soprattutto per quel che riguarda il mondo stratosferico del libro d'artista. E io, appunto, che insegno editoria d'arte e faccio i libri da, faccio fare ai miei studenti il libro d'artista, naturalmente vi consiglio caldamente di venire al Mambo e di pagare questi 4 euro d'entrata per vedere una fetta di quello che è stata l'arte contemporanea del secolo scorso, ma anche del secolo odierno, e perché appunto ci sono stati artisti di altissima caratura che hanno stampato libri che troverete appunto al Mambo in via Dominzoni 14, Bologna, e questo a partire da venerdì 24 maggio alle ore 12. Naturalmente su coxospaziale.blogspot.com troverete anche tutti i link per sapere gli orari, eccetera eccetera, ma se non vado errato sabato e domenica è dalle 10 alle 19. Dopodiché venerdì 24 maggio alle ore 15 abbiamo L'arte fuori di sé, un dialogo tra tecnologia e arte, con Andrea Balzola e Leonardo San Giorgi di Studio Azzurro. L'arte fuori di sé è un manifesto per l'età post-tecnologica, Feltrinelli 2011, è un manifesto per l'arte nella sua maturità digitale, che delinea una visione profonda e significativa sul rapporto plurale e circolare tra artista, opera d'arte, tecnologia e pubblico. Durante l'incontro verranno esplorate le dinamiche relazionali tra questi elementi, con l'intento di avviare un confronto in un luogo di formazione e ricerca come l'Accademia di Belle Arti di Bologna sui ruoli che i dispositivi multimediali possono assumere sia nei processi di produzione artistica sia nelle progettualità e nelle pratiche di mediazione del patrimonio culturale. Questo è in Aula Magna all'Accademia di Belle Arti di Bologna venerdì 24 maggio alle ore 15. In via delle Arti 54. Dopodiché cosa succede? Sabato, oltre a Books naturalmente, alle ore 17 Car Gallery è lieta ad annunciare Luna Coronata, la prima personale in galleria di Giusy Pirrotta, un'artista fantastica nata a Reggio Emilia nell'82 che vive e lavora a Roma dopo essere stata tantissimi anni a Londra. La mostra enfatizza la dimensione mostruosa, seducente, respingente, le qualità magiche e le caratteristiche diaboliche con cui è stata rappresentata la donna nella storia, nella mitologia e nella letteratura, fino alla contemporaneità. Gli aspetti selvaggi, la libertà sessuale, la capacità di generare vita e morte sembra siano elementi che devono essere controllati e contenuti. Il progetto studia l'iconografia del mostruoso femminile e sfida la visione di una femminilità empatica, passiva e sottomessa, invitando a riflettere su come il discorso storico abbia influito sulla contemporaneità e sulle norme di genere restrittive che storicamente sono state imposte alle donne. Tutto questo è in auge sabato alle ore 17 a Car Gallery alla Manifattura delle Arti in via Azzogardino 14A a Bologna. Sempre sabato 25 maggio, nel contesto di Books Bologna Art Book Festival, abbiamo che si terrà al Mambo, abbiamo non molto lontano in via San Carlo 44A una mostra dedicata ai libri d'artista e alla galleria d'arte contemporanea. Qui non c'è niente da leggere, una selezione di effimera e libri d'artista da Galleria Forma e Galleria La Bertesca, Genova 1966-1982, a cura di Veronica Bassini. Questo sabato 25 abbiamo l'inaugurazione alle ore 19 fino alle 21 con immancabile dimostrazione di stampa tipografica live, e domenica 26 è aperta dalle ore 13 alle ore 20 con la possibilità di visita guidata su prenotazione con Veronica Bassini, la curatrice della mostra. Tutto questo all'Anonima Impressori di via San Carlo 44A a Bologna, sabato 25 alle ore 19. sempre con il dono dell'ubiquità, sempre sabato 25 maggio, sempre alle 19, inaugura Mezzo Mondo a cura di Art Motel e adiacenze, in collaborazione, tanto per cambiare, con l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Mezzo Mondo è una mostra collettiva curata e ideata da Art Motel e adiacenze nell'ambito della programmazione artistica della Casa della Cultura Italo Calvino di Caderara di Reno. Il progetto prevede il coinvolgimento di 10 artisti emergenti, alcuni selezionati tra gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, altri attraverso un'azione di talent scouting sul territorio. I mezzi espressivi privilegiati sono il disegno e la pittura, unico vincolo imposto ai partecipanti, che invece avranno ampia libertà per le tematiche trattate nelle proprie opere. Gli artisti sono Zeno Berlini, Elisa Cocchi, Carolina Gelardi, Filippo Maestroni, Anita Poidomani, Margherita Racca, Ena Rathgeb, Alice Ricci e Dionisis Saragi. Tutto questo alla Casa della Cultura Italo Calvino in via Roma 29 a Calderara di Reno. E io so già che sarà una mostra da non mancare. Questo perché conosco alcune delle studentesse dell'Accademia che fanno opere absolutely fantastiche, ma non facciamo nomi, anche perché dopo poi gli altri magari si arrabbiano. Dove siamo rimasti? Siamo rimasti che in realtà ci hanno mandato degli altri pezzi. Devo scegliere tra uno e l'altro. Cosa ascoltiamo? Io direi che ascoltiamo Mac Korlevich, Rain or Shine, ovvero un nuovo album che è uscito il 10 maggio, di debutto del duo alternative folk veronese Mac Korlevich, che unisce due mondi sonori in un viaggio intenso ed autentico che profuma di America. Il duo veronese è composto dall'esperto cantante Cristiano Mecchi e dal talentuoso chitarrista Davide Korlevich, e dunque Mac Korlevich. Cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo, adesso prima lo devo anche trovare, cosa ci ascoltiamo? A New Tomorrow, adesso, ah eccolo qua, l'ho trovato, A New Tomorrow, e ringraziamo naturalmente Peyote Press che ci ha spedito l'intero album. Eccolo qua, A New Tomorrow di Mac Korlevich, uscito il 10 maggio. Staring at the sea, came a man walking on the cliffs and threw a ring into the black. Let free another cry, take time, the season's wild. Nighttime brings a new tomorrow. Strolling in the past, make a ring around the sun. Make a ring around the sun. Here's a rise, the weather is on. Get the five birds and you're gone. Wanna sing it out of tune. Come on baby, tell me what is core. Now what is core. I wanna sing it the tune again. I'm on, you take me so high. We're into beauty when we're on a line. Oh well, now I'm playing, we're going through. We're going. Feels so good, you're going on fire. You feel so good. Non male questo A New Tomorrow di Mac Korlevich, dell'album Rain on Shine, che è uscito appunto il 10 maggio per XOLA Factory, oppure XOLA Factory, non lo so. Detto questo, il tempo sta per finire anche stavolta, incredibilmente. Pur essendo da solo, il tempo vola quando ci si diverte. E dunque, abbiamo detto di Julian Assange, abbiamo detto di Books, direi che possiamo dire che i nostri amici di Pant 80 sono qui che ci aspettano per far partire la loro trasmissione. E visto che sono le 20:54 e ho un pezzo di qualche minuto in più, forse potrei anche farvi sentire appunto un pezzo dal nuovo album degli Ataraxia, che sta per uscire, uscirà il 24 maggio. Quest'album, il 29esimo, è il secondo album di una trilogia iniziata con Pangrenade, The Chant of the Elements, del 2022, che si concluderà con un lavoro sui Campi Elisi. I testi delle canzoni, cantati in numerose lingue antiche e moderne, sono preziose poesie di Francesca Nicoli e Mara Paltrinieri, che aveva già collaborato ai testi dei primi album della band. Ataraxia è un ensemble nato a Modena nel 1990 che lavora in bilico tra avanguardia e tradizione. Musicalmente si definiscono artigiani del suono, poiché creano in suoni e insoliti connubi tra sacro e profano, antico e contemporaneo. E dunque ci ascoltiamo Viritidas e ringraziamo Marco Gargiulo di Metaversus PR che ci ha mandato tutto l'album. E nel frattempo vi salutiamo anche perché Coxos Spaziale finisce qui. E dunque ci risentiremo lunedì prossimo, avremo degli ospiti d'eccezione, se non ci tirano il pacco come è successo oggi. Io ero Stefano W. Pasquini e questo appunto era Coxos Spaziale. Ascoltiamoci gli Ataraxia.